X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Prima pensavo di vincere, adesso stravinceremo. Quindi anche più del PD? Assolutamente. Quanto più del PD? La non lo so, ma assolutamente. Basta un candidato più del PD che venga eletto al Parlamento europeo, abbiamo vinto. Uno soltanto? Ma certo. Sono 75 fra tutti. Ma poi secondo lei si aprirà anche diciamo una crisi di governo? Ma certo, vado io da Napoletano, adesso Napoletano poi ci deve dare l'incarico e ci prenderemo il paese in macerie, solo così. Questa è una decisione politica, politica vuol dire o noi o loro. Onorevole Simona Bonafè, buongiorno, capolista PD alle europee nella circoscrizione del centro. Ha sentito Grillo, si preoccupa? Sì, mi preoccupo, l'ho sentito. Perché si preoccupa? Ma perché mi pare evidente, anzi pare evidente a tutti, che Grillo stia alzando i toni in questa campagna elettorale perché deve nascondere sostanzialmente il vuoto pneumatico dei risultati di questo primo anno di Parlamento. Loro dovevano essere la forza del cambiamento e l'unica cosa che sono riuscita a fare è stata quella di bocciare tutte le nostre proposte. Senta. E allora le dico così, sarebbe più opportuno che Grillo, invece di guardare alle prossime elezioni e di preoccuparsi di un governo che già c'è, guardasse alle prossime generazioni e ci desse mano a portare avanti le riforme. Ecco, onorevole Bonafè, lei è una renziana di ferro della prima ora. Però ha accettato la sfida delle europee. Perché ha scelto di dire sì a Bruxelles? Beh, perché l'Europa conta. Già oggi possiamo considerarla politica interna. E io voglio contribuire a far contare di più il Partito Democratico in Europa. Certo, un'Europa diversa, che non è solo quella del rigore, ma anche quella dello sviluppo. So che è una sfida complessa, che mi dovrò misurare con il consenso, con il voto di preferenza, in un collegio ampio, ma ci sto mettendo tutto l'entusiasmo e la passione che ho. Senta, l'economista Zingales, nel suo libro Europa o no, dice che l'Europa è un sogno da realizzare o è un incubo da cui uscire. È questo il bivio? È questo il bivio, perché certo io vorrei che l'Europa fosse il sogno delle future generazioni, non un incubo, però devo anche dire che oggi è vissuta solo come un limite. Allora sentiamo parlare del fiscal compact, del patto di stabilità, del limite del 3% e non delle opportunità che già oggi ci sono in Europa, come la libertà di movimento per i cittadini e per le merci e come l'Erasmus, che è l'esempio più concreto delle opportunità che l'Europa offre a tanti ragazzi e ragazze per la loro formazione e capacità professionale. Senta, uno dei padri di questa Europa, Romano Prodi, cosa dice al microfono di Marina Milone rispetto al dilemma Europa sì, Europa no? Non possiamo mica pensare che nella globalizzazione del mondo che è diventato così grande i singoli paesi possano resistere. Se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo pensare di tornare indietro, con il che è finita. Con il che l'Europa e i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli. In questo momento, oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa, e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo. Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati, perché se no, se picchiamo i pugni sul tavolo da soli ci rompiamo le dita e non otteniamo nulla. Ecco, onorevole Bonafè, Europa sì, dice Prodi, ma alleati con gli altri paesi mediterranei per difendere interessi comuni, è possibile? Ma guardi, io credo che l'Italia possa essere più forte in Europa solo se fa i compiti a casa, come dice il Premier, e quindi rende più efficace il suo sistema istituzionale e solo se punta su crescita e competitività. In fondo, se abbiamo un debito pubblico che è al 133% del PIL, non lo dobbiamo all'Europa, ma lo dobbiamo alla nostra incapacità di progettare politiche serie. Ecco, ma lei cosa si aspetta da Renzi per l'Italia nella sua gestione che ci sarà prossimamente del semestre europeo? Appunto, mi aspetto che Renzi costruisca l'Europa della crescita, anche con una piena valorizzazione degli strumenti che già oggi il mercato unico offre, e soprattutto l'Europa dei cittadini, perché noi dobbiamo riavvicinare i cittadini all'Europa e dobbiamo rimettere in moto il processo di costruzione europea. Ecco, onorevole Bonafè, senta cosa hanno detto due grandi imprenditori italiani, Diego Della Valle e Oscar Farinetti, come vivono insomma loro la sfida del Made in Italy in Europa, Cosa hanno detto Farinetti? Lei dice: l'Italia, appunto, ha 5 vocazioni: agroalimentare, moda, turismo, patrimonio artistico, industria manifatturiera. Basta avere le persone giuste in queste aree e il gioco è fatto. Renzi le metterà o le ha messe? Secondo me sì, le ha già messe, ne metterà delle altre. Serve un grande capo al Made in Italy, un grande capo all'export, una figura. Nome ce l'ha? Ne avesse voglia di farlo, Diego Della Valle. Un grande progetto per la ripartenza del paese, secondo me parte dal turismo, che il nostro paese può vendere al mondo intero il prodotto. Vendere l'Italia turismo. Più che il Made in Italy. Vendere l'Italia. Lo stile di vita italiano a gente che ama l'Italia, che qua vuole venire, dobbiamo farceli venire. Dobbiamo dare la possibilità ai cittadini del mondo di riconoscere quello che è italiano. Invento un marchio unico che si chiama Italia, io ho proposto la mela tricolore, lo appongo su tutti i prodotti veri italiani e faccio un advertising nel mondo, si ricorda quello di Pura la Vergine Vero Cuoio, quella roba lì, cerca il prodotto italiano. Ecco, onorevole Bonafede, sono due grandi imprenditori, Della Valle e Farinetti. Lei è d'accordo? Beh, questi sono gli imprenditori che mi piacciono, gli imprenditori che servono all'Italia, quelli che portano avanti il nome dell'Italia, me lo faccia dire, nonostante l'Italia, la sua burocrazia e la sua assenza finora di politiche di sostegno alle imprese. Pensiamo al Made in Italy, oggi traina il nostro sistema nel mondo e noi dobbiamo partire da lì, rilanciare, puntare sulle eccellenze e fare una lotta serrata alla contraffazione che oggi ha un valore di 7 miliardi. 7 miliardi. Senta, onorevole Bonafè, ancora una cosa. I movimenti no euro, i neonazionalismi, le fanno paura? Sì, mi fanno paura. Perché? Perché oggi, oggi c'è bisogno di più Europa e non di egoismi e di chiusure nazionali. Ecco, ma per voi sono avversari più duri gli astensionisti oppure Grillo? Ma guardi, Grillo, sicuramente Grillo, perché non ha uno straccio di proposta credibile, ha speculato fino ad ora sull'incapacità della politica di produrre decisioni, ma non ha portato a casa risultati, e cavalca un malessere che esiste, che ha bisogno di risposte concrete e non di slogan. C'è Mario Secchi, vuol fare una domanda rapidissima. Buongiorno. Buongiorno. Cosa dirà ai suoi colleghi tedeschi al Parlamento europeo se dovesse essere eletta? Ai miei colleghi tedeschi dirò appunto che serve più Europa e che serve soprattutto l'Europa degli Stati Uniti e che non servono politiche economiche che guardino solo a una nazione ma politiche che rilancino l'Europa nel sistema internazionale. Pietrangelo, anche tu una domanda? Sì, lei prima ha detto, onorevole, buongiorno, ha detto che l'Europa è ormai una politica interna. Una domanda, gli ucraini adesso vogliono entrare nel frattempo che molti italiani vogliono uscire dall'Europa. La domanda è questa, lei cosa dice rispetto alla questione ucraina e quindi rispetto alla volontà di Putin di difendere la propria sovranità? Intanto dico che l'Europa dovrebbe avere una politica estera comune e non dovrebbe rapportarsi agli altri stati con tante voci. E poi appunto sta lì la contraddizione, cioè molti vogliono uscire dall'Europa e noi abbiamo nazioni che invece guardano all'Europa come opportunità. E beh, è questo il tema, oggi l'Europa deve essere un'opportunità e dobbiamo aprire a chi vuole entrare. Grazie onorevole Bonafè. Con gli occhi spenti, con lo guance cave, pallidi, in atto addolorato e grave, sorreggendo le donne affrante e smorte, ascendono la nave, come se scende il palco della morte. E ognun sul petto trepido si serra tutto quel che possiede sulla terra. Altri un misero involto, altri un patito bimbo che gli s'afferra al collo. Dalle immense acque atterrito. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, sono due strofe di migranti, una poesia di Edmondo D'Amicis, ma gli uomini che descrive spaventati dal mare ma pieni di speranze eravamo noi. Proprio in questi giorni sono riesplosi gli sbarchi. I centri di accoglienza sono al collasso. Giusi Nicolini, buongiorno, sindaco di Lampedusa. Dopo le 339 bare che hanno riempito telegiornali, giornali di tutto il mondo, che cosa è cambiato lì da voi? Ma guardi, è difficile dire che sia cambiato qualcosa di concreto. C'è più sorveglianza nel Mediterraneo, c'è Mare Nostrum. Il rischio dei naufragi è lievemente diminuito, ma non si è arrestata la fuga di queste persone, non è migliorata la nostra capacità di accoglierli. Ecco, Barroso aveva detto, Manuel Barroso, non dimenticherò mai le centinaia di bare quando è venuto a Lampedusa a trovarvi. Ecco, cosa ha fatto l'Europa per sostenere Lampedusa e l'Italia naturalmente in questa sfida difficilissima? Niente, c'è una parte dell'Europa rappresentata dal presidente Schulz che è stata molto vicina, ma non senza darci molte speranze. Schulz mi disse quella volta che appunto non ci sarebbero state novità in quel Consiglio d'Europa che si tenne quasi un mese dopo quel naufragio. E l'Europa ha questo peso enorme sulla coscienza ed ha il dovere, si parlava prima di politica comune, sì, di avere una politica comune. Che però non c'è ancora assolutamente. Come? Che però non c'è. Non c'è, ma non c'è anche per colpa degli stati che si affacciano sul Mediterraneo e che pensano soprattutto alla loro sovranità piuttosto che ad avere una politica comune. Il Mediterraneo è una risorsa di tutti, non è il problema di ciascuno. Certo, lei aveva chiesto di aprire dei corridoi umanitari. Il suo appello però è stato ascoltato o no? No, dicono che sia qualcosa di estremamente difficile perché gli interlocutori al di là nella sponda sud del Mediterraneo non ci sono. È vero che lì c'è una situazione molto difficile, ma è pure vero che lì noi abbiamo le nostre ambasciate, che ci sono le organizzazioni internazionali che possono supportare questo lavoro di attivare il diritto d'asilo nei paesi di transito, sulle coste. Se fosse difficile farlo in Libia si potrebbe fare altrove. Le rotte cambiano, le rotte dei migranti cambiano, se le decidono i trafficanti, ma potrebbero cambiare se le decidesse la politica. Ecco, lei, Renzi, le aveva chiesto di candidarsi capolista alle europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. Poi è scivolata al terzo posto e ha rifiutato, perché non è l'Europa il luogo, l'ha detto prima, il luogo per combattere questa battaglia? Sì, ma non deve essere una battaglia personale del sindaco di Lampedusa. No, certo che no, ma lei ha una competenza assolutamente specifica che l'avrebbe potuta portare in Europa. Mi sembrava che potesse essere la bandiera di questa campagna elettorale del Partito Democratico. Lei non voleva essere una bandiera, insomma. No. Lo dico in positivo. Ah, ecco. Pensavo che mettere Lampedusa, le migrazioni nel Mediterraneo, le tragedie nel Mediterraneo in testa alla campagna elettorale di questa tornata significasse mettere il Mediterraneo. Ah, e quindi dice il terzo posto? No, il primo sì, era questo. No, ma non è una questione di primo o terzo posto, è una questione di priorità, di scelta. A me, diciamo, la carriera politica non mi interessa. No, questo, ho capito. Senta cosa ci ha detto Carlotta Sami, poi ne parliamo, la portavoce dell'UNHCR per il Sud Europa. Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR per il Sud Europa. Com'è la situazione dei centri di accoglienza in Italia? Intanto quanti sono? Beh, è difficile dire quanti sono i centri di accoglienza, perché attualmente... Sì, ma un numero, ci sarà un numero. Beh, guardi, sono una decina circa su tutto il... Su tutto il territorio ne abbiamo 10 centri di accoglienza. Che bisogna essere un po' chiari su quella che è la loro destinazione. Siccome gli arrivi sono così ingenti, così tante persone, non possiamo dire quanti esattamente in questo momento sono i centri che ospitano. Cioè, ce ne sono anche di quelli che non sono ufficiali. Insomma, che non sono perché centri. Ci sono dei luoghi che sono delle cooperative, sono anche delle strutture tipo alberghi, agriturismi, ecco, eccetera, che sono stati messi a disposizione per poter ospitare nelle prime 24-48 D'accordo. Ore le persone che arrivano. Ecco, ma quanti sbarchi vi aspettate adesso col bel tempo, diciamo? Ci aspettiamo che il trend continui perché ci sono problemi in paesi come la Siria che non si risolvono e quindi lì abbiamo intere famiglie che pensavano di poter ritornare nel paese, che vedono e che oramai questo non è sono possibile. Pronti a partire per la e disperazione. Sono famiglie siriani molto vicini a noi, molto simili a noi, cercano di dare quello che più possono ai propri figli e quindi cercano di venire in Europa, dove fra l'altro hanno spesso parenti che sono già cittadini svedesi o cittadini tedeschi. Il presidente Zaia ha detto che il Veneto non accoglierà altri migranti. Temete un effetto a catena? Beh, sarà difficile che venga posta un veto di questo tipo. Certo c'è un rapporto di forza fra il Ministero degli Interni e le autorità locali che speriamo si sbrogli presto, perché ci dovrebbe essere invece una gara di solidarietà. Sindaco Nicolini, che effetto le fanno le parole di Zaia? Cosa gli risponde? Ma guardi, questo è il frutto di una politica propagandistica e cinica che è durata per molti anni nel nostro paese. Le posso però dire che dopo il naufragio del 3 ottobre, ma anche dopo la visita del Papa a Lampedusa, io ho toccato con mano che c'è un'Italia diversa, che veramente fa gara per la solidarietà. Dopo il 3 ottobre erano tantissimi sindaci che mi telefonavano anche del nord Italia per dirmi: possiamo ospitare noi le bar, possiamo ospitare noi... Quindi è campagna elettorale, dice, insomma. Ma sì. Ma quante persone ci sono adesso nel centro di accoglienza di Lampedusa? No, Lampedusa per ora è vuoto perché ci sono lavori in corso. Finalmente si stanno ricostruendo i padiglioni che erano stati incendiati nel 2015. E per l'estate pensa che arriveranno gran numero di migranti? Ma guardi, non sarà un'estate diversa dalle altre, sono sempre arrivati. Senta, Sindaco Nicolini, l'Italia ha subito un'altra infrazione da parte dell'Unione Europea perché gli standard d'accoglienza non sono adeguati. È vero, il danno è la beffa, insomma. Anche il centro di Lampedusa è stato declassato. No, guardi, no, l'Europa non sempre sbaglia. L'Europa non ha sbagliato quando ha condannato l'Italia per i respingimenti attuati da Maroni. Nel 2009. Sì. L'Europa non sbaglia quando condanna il nostro paese perché... Ma quando sbaglia l'Europa? Quando non fa politiche? No, l'Europa precise. Sbaglia quando delega all'Italia il tema del soccorso in mare e questo flusso che secondo loro dovrebbe rimanere tutto da noi, anche con disprezzo della libertà che queste persone si conquistano con la... mettendo a rischio la propria vita. Sindaco Nicolini, Mario Secchi ha una domanda per lei. Sì, una sintesi brutale, ma non è che però l'Europa alla fine proprio su Lampedusa è stata tutto chiacchiere e distintivo e basta? Beh sì, però guardi, le cose cominciano a cambiare così. Quando mi si disse sono venuti a fare la passerella a Lampedusa, ma quando mai si era visto Barroso o il Presidente del Consiglio a Lampedusa? Dice, si comincia anche così. Sì, dice lei. Si deve venire, si devono vedere le bare, si deve piangere, si deve prendere atto della situazione e poi così possono cambiare le cose. Io ci credo moltissimo. Ormai nessuno può fare finta che il Mediterraneo è un cimitero. Certo. Nessuno può fare finta che il nostro paese debba essere diviso in due, la Sicilia dove come periferia d'Europa e d'Italia, perché anche sul piano dell'accoglienza gli errori commessi da Maroni li stiamo piangendo adesso. I centri d'accoglienza Maroni li collocò in Sicilia e non andò mai più sopra Bari. Ecco perché Roberto da Modena, sempre preparati. Sindaco Nicolini, Roberto da Modena dice: abbiamo in Italia caserme enormi inutilizzati, per quale motivo non possono essere utilizzate per l'emergenza profughi? Perché c'è stato un momento in cui in questo paese... Ma lei è d'accordo nell'utilizzarle così? Affittare le strutture private. Hanno affittato Mineo, hanno affittato agriturismi, alberghi. E su questo tema si è introdotto il business in tutte le emergenze. In tutte le emergenze. Senta, Pietrangelo Buttafuoco, una domanda per lei, Sindaco. Buongiorno, Sindaco. Una domanda. Di Lampedusa, ahi noi, sappiamo tutto. È una storia che conosciamo e che raccontiamo continuamente. Però lei è sicuramente informata. Vorremmo che anche i nostri ascoltatori sapessero un fatto, e cioè, magari lo spiegasse lei, che cosa succede poi a Malta, che cosa succede in Grecia, che cosa succede a Gibilterra, perché la porta d'Europa non è soltanto la Sicilia, e a noi risulta che invece c'è una situazione tragica, drammatica, di respingimento, certo, operato anche in aree dove il Santo Padre per esempio non ha mai fatto menzione, e sarebbero appunto la cattolicissima Spagna, la cattolicissima Malta, la cristianissima Grecia. Mamma. Bravo, ed è per questo che esiste la rotta Lampedusa. Perché... E questo è un tema che dovrebbe farci riflettere, perché l'Italia dovrebbe essere orgogliosa di quello che fa, noi li salviamo e gli altri non lo fanno. E gli altri sparano anche perché l'Europa, ma l'Europa, gli altri sparano anche perché Barroso non dimenticherà mai le bare di Lampedusa, però si deve ricordare che la Spagna spara sui migranti. Barroso non va in Spagna, lo so, non ci va lì. Ma infatti quando noi parliamo d'Europa, parliamo di una comunità che è costituita dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Italia, e sono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo che devono cambiare la loro politica. E quindi bisognerebbe essere uniti in una politica che non abbia solo il canale di entrata da Lampedusa. Sindaco, esatto, quello è l'unico, perché è l'unico canale di salvezza per queste persone. Chiedo scusa, sindaco, glielo dico nella nostra lingua, forse hanno individuato in Lampedusa un muro vascio. No, guardi. Puoi tradurre per noi, alieni. È un muro basso. Un muro basso, okay. Su cui tutti si appoggiano. No, guardi, allora, finché il diritto di asilo per persone che sono costrette a fuggire, non stiamo parlando di migranti economici, stiamo parlando di profughi richiedenti asilo, finché il diritto d'asilo viene gestito dalla criminalità organizzata, è ovvio che insomma lei andare in Europa per fare questa battaglia, questa polemica, però no, più che polemica, portare le ipotesi di soluzioni che vengono dall'esperienza, forse era una cosa importante. Ma potrò sempre farlo come sindaco. Ah, va bene, allora le facciamo tanti auguri e buon lavoro. Ma è sbagliato a delegare alle persone. No, ma lei in persona diventa istituzione quando va in Europa. Le forze politiche devono essere gli stati. Ma sono persone le forze politiche, non è che sono un'entità astratta. È questo che io ho voluto dire rifiutando la candidatura non da capolista. Non ho voluto dire, volevo essere io la prima. Volevo dire, non può essere una battaglia che faccio personalmente, perché quella d'accordo, la posso bene. Fare da sindaco. Va bene, e allora buon lavoro, pubblicità. Ti passi le mie novità, vuoi che sia la libertà, sento solo un po' più stanco, non ho voglia di ricominciare. La nave passa dove i sognatori sono librai, a scrivere poesie sono i fornai, le mani del colore della terra. Allora, Pietrangelo, l'ispirazione oggi? Allora, Zibba, dove i sognatori sono librai, e ovviamente la dedica speciale ai librai d'Italia, alle librerie che chiudono, il sipario sull'unico urgente ossigeno che è lo spirito critico. La poesia non trova che strade difficili, e dietro ai sogni non c'è, e tu lo insegni, la fantasia, ma c'è la fatica, perché è sudore, e anche l'affitto da pagare delle librerie dove non entra più nessuno è una fatica di poesia. Sono preoccupato. Perché? Questo ragiona, non sei d'accordo? Sono d'accordo con Buttafuoco. Ah beh, questo è pericoloso. Sì, stamattina è ispirato come è ispirata la nostra quota rosa oggi. La Tardelli rosa che fa? Siamo così dolcemente complicate. Pazzita. Sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. Ma oggi mi sento un po' così, un po' complicata. Però proprio ieri sera, mentre ascoltavo quello che le donne non dicono, ho pensato, certo che la Mannoia dice che se nelle sere tempestose, cioè quando sta diluviando, un uomo va a trovare a casa una donna, prima di suonare il campanello, Mario ascolta, prima di suonare il campanello deve, sotto il diluvio, andare a comprare un mazzo di fiori, ovvio. Poi, quando arrivi a casa della donna, tu uomo, dopo aver attraversato la città sotto il diluvio e comprato anche un bel mazzo di fiori, se porti buone notizie, allora vedrai che ogni donna ti dirà sempre di sì. Beh, vorrei anche vedere, ho pensato, ogni tanto un po' di autocritica va fatta. Mamma mia, questa quota rosa oggi ci stupisce, forse tremendo. Perché oggi è emozionata, inizia tutti convocati, a che ora Sara cominci a fare la tua parte? No, a Carlo Genta piacciono le sorprese, quindi non lo so. Vabbè, e vedremo, aspetteremo di sentire la nostra Tardelli a tutti i convocati. No, volevo solo dire una cosa. Lei ha detto, oggi mi sento un po' complicata. Oggi? Questo ti sorprendeva. Oggi? Sempre! Bolle! La verità è giusta. La verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità in tutte le sue forme. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E allora, il nostro grande, cioè, diciamolo, unico... che ne abbiamo anche degli altri, sì, ne abbiamo moltissimi, ma lui è il grande, l'unico imprescindibile, il tuo master Gordon, anche perché Ghetto. Così vi faccio tornare un po', diciamo, alla realtà, dopo questi voli pindarici tra librerie della Tardelli, la Tardelli con poesie. La poesia, ma vabbè, lasciamo stare. Giovanni, introduco il tema che noi abbiamo già affrontato varie volte in realtà, ma abbiamo, come si vuol dirsi, il chiodo dove appendere il quadro, che è un libro in questo caso, uguali ineguali, eguaglianza, distribuzione della ricchezza, eccetera. C'è un libro che ha alimentato un grande dibattito in questo momento, ovviamente un dibattito su un libro che in Italia non è tradotto, arriverà ovviamente, ma nel frattempo si sono esercitati un po' di colleghi, bene direi anche. Il libro è Il Capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty, è il libro di una nuova rockstar dell'economia, è francese, 685 pagine, attendiamo la traduzione italiana. 685 pagine. Nel frattempo io ho cominciato a leggerlo in inglese nell'edizione dell'Harvard University Press. E vabbè, controverso, però senza dubbio interessante, perché rimette dentro, direi con i piedi piuttosto pesanti nel piatto, il tema della distribuzione della ricchezza, attenzione, non del reddito. Che per carità è fondamentale, ma della ricchezza intesa in senso di proprietà degli asset, capitale e così via. Perché la vera, diciamo, bolla, la crescita della ricchezza è su quel punto là. Certo. E il club dell'1% si è arricchito. A dismisura. Piaccia o meno, a dismisura. A dismisura. A dismisura su questo punto particolare della struttura del capitale. Allora, ma se è così, tutto il dibattito che è stato fatto in Italia su tutto quello che ci ha preceduto, diciamo, era giusto o sbagliato? E quello che dobbiamo fare adesso, che cos'è? Perché in Italia... È che la differenza... Ne parla solo Giuliano Ferrara sul foglio, È che la differenza, la forbice tra ricchi e poveri oramai, diciamo, è insostenibile. Perché chi si è arricchito troppo, e la distruzione della classe media è diventato un delitto... Domanda provocatoria. Contro l'umanità. Domanda provocatoria. Sì. Non è un argomento da marxista questo? Beh, non è importante, è un argomento. E tu? Però da corporativista impaziente sì, può diventare un argomento. Eccolo. Le strade sono solo due, e cioè che la politica deve riprendersi la sovranità, a maggior ragione nell'economia, e poi i lavoratori devono partecipare agli utili delle aziende. L'unica regola è sempre quella sociale. Posso dire, vabbè, come noi abbiamo qua, no, una varietà di opinioni, sì. Per esempio Giuliano Ferrara ha fatto un pezzo secondo me molto interessante qualche giorno fa sul tema. Mi piacerebbe che in Italia ci fosse un dibattito di questo è tipo. È un bel dibattito. E il solo Papa, noi, e insieme a qualche giornalista illuminato, no, intellettuale, che... però è la verità. Poi magari sbagliando, poi arriva lui, Dario Fo, si mettono a litigare, lui, vabbè, facciamoglielo fare, vabbè, Salamino. Mai musica fu più appropriata. Allora, è un libro di Melania Mazzucco, è stato dato da leggere da alcuni docenti del Giulio Cesare di Roma agli alunni del ginnasio, cioè il biennio, i primi due anni. Vado alla lettura, perché tutti i giornali oggi ne hanno parlato, però nessuno ha letto il testo. E poi se lo leggono a scuola... Il testo in questione? In questione. Vabbè, dai, il momento a fare in questione, un po' in fretta. Dai. Faccio in fretta, ma dico, se lo leggono a scuola lo leggo, eh? Allora, sì, virgolette, si inginocchiò. fingendo di cercare l'accappatoio nel borsone e poi, con un guizzo fulmineo, con una disinvoltura di cui non si immaginava capace, ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Invece di dargli un pugno in testa, Mariani lasciò fare. Vabbè. Josie lo inghiottì fino all'ultima goccia e sentì il suo sapore in gola per giorni. Si chiede Nicoletta Tiriakos. Non credo alla sanzionabilità dello sceno, ma al vilipendio della lingua italiana non ci pensa proprio nessuno. Ha ragione. In tutto questo i grandi giornali si scatenano contro gli studenti che hanno protestato accusandoli di omofobia. Chi hanno ragione, gli studenti e i genitori? È una domanda giornali? Per il nostro pubblico. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Scriveteci o telefonateci, ci interessa. Io volevo leggere una cosa che ha scritto Alessandro D'Avegna, che insegna italiano, latino e greco al San Carlo di Milano, e dice: denunciateci, non se facciamo leggere cose brutte, ma se non facciamo leggere secondo bellezza. Se lo facessimo non ci rimarrebbe tempo per le banalità e per le denunce. Si vede che non aveva letto il passo della l'aveva ragione. Letto, l'aveva letto. E dove sta bellezza? No. Sembra Leone. Anzi, lui dice facciamo leggere altro, questo sta dicendo. Cioè, basta letteratura. In allora, andiamo avanti con le nostre bolle. Va bene, state a seguire con molta attenzione. Ci sono tre modi di fare le cose qui. Il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. Ecco, questo era un passo fantastico di Casino. Noi cerchiamo di farle a modo nostro, le cose poi giuste e sbagliate. Vediamo, no? Giovanni e Pietrangelo. Ora, è una giornata, abbiamo introdotto l'argomento del capitale, la distribuzione della ricchezza. È una giornata da capitalisti, perché oggi escono i risultati del primo trimestre di alcune grandi aziende, e ci aiuta tutto questo ovviamente a capire che aria tira, come va il business globale. Parlo di eBay, Volkswagen, Spirit Airlines, LG, Deutsche Bank, Santander, Bristol Myers, British Petroleum e American Mobil. Sono tutti settori fondamentali, dalle telecomunicazioni all'energia, passando per la finanza e il cosiddetto settore dell'automotive, cioè quelli che fanno automobili, fino alla vendita e commercio elettronico con un gigante che si chiama eBay. Dobbiamo guardarli con attenzione. La settimana scorsa abbiamo avuto i risultati importanti dei giganti dell'high tech, cioè di Facebook e Apple, con robusti fatturati. Qualche interrogativo, secondo me, sul futuro con i nuovi prodotti, soprattutto per Apple. Però vabbè, tutto da leggere, molto interessante. È questo il mondo che cammina, non le chiacchiere che sentiamo spesso nel dibattito italiano. Allora, questo è un pezzo bellissimo dei Killers, Human, e ci vuole un tocco, secondo me, di umano, perché quello che sta accadendo nel settore dell'automazione richiede uno sguardo molto urgente e anche decisioni altrettanto urgenti. Tu ricordi Ennio Doris, ovviamente, certo, che naturalmente, ha inventato la banca intorno a lui, voglio dire. Geniale, parliamoci chiaro, quello è stato un colpo. Allora, che cosa succede? Insomma, te la faccio breve. In America stanno chiudendo un numero di filiali bancarie straordinario. Capiterà anche qua. Sì, sta già capitando anche qua. No, c'hai un grafico davanti, non lo illustriamo, è una cosa enorme. Entro il 2035 il 47% dei lavori sarà automatizzato. Il CEO di Google ha chiesto ai governi di occuparsi del problema, perché comunque la Silicon Valley continuerà a costruire. Nessuno fa niente. Ripeto, entro il 2035 il 47% dei lavori sarà automatizzato, cioè ci sarà più disoccupazione e nessuno ne parla. Canzoniere. Sire, un altro telegramma. Da dove? Da Tomsk. Più in là di Tomsk il filo è tagliato? Da ieri. Ogni ora, generale, fa spedire a Tomsk un telegramma. E che mi si tenga al corrente. 800 24 00 24. Il numero verde 349-238-6666. Nella seconda parte della trasmissione oggi Marina Milone ci racconterà la vita del grande Domenico Modugno. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Io penso sempre che la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come, non so, è come la miniera, no? Come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova. Insomma, la canzone, per me, le note stanno nell'aria. Meraviglioso. Nella seconda ora, Domenico Modugno, pubblicità. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, l'SMS 349 238 6666 Salamino. Scopro in un'intervista di Maria Elena Boschi oggi sul Corriere della Sera che il ministro è iscritta all'ANPI, che non è l'Associazione Nazionale dei Paracadutisti d'Italia, bensì quella dei partigiani. Ora, siccome da questo maledetto dopoguerra non se ne esce più, al ministro Maria Elena Boschi si soave. Io Bravissimo. Vorrei dedicare in nome della pacificazione la canzone più acconcia alla situazione, al momento e a lei stessa. Ciao biondina, ci rivedremo. Ciao biondina. Andiamo avanti con le bolle, va? Questa la cantava pure Dario Fo, sai? Dario, sì. Beh, appunto, ma... Cioè. La cantava, la cantava. Gli estremi coincidono, eh? Se l'è dimenticato, ma insomma, fa niente. You need to put all the cash in a bag for me. Allora, questa è Melissa McCarthy in un film che esce in luglio, 2 luglio, in America almeno, si chiama Tammy. È uno dei film più attesi, qua se andate a vedere il trailer è una rapina in un McDonald's, chiamiamolo così, dove fanno un po' di un fast food. È molto divertente. Perché la cito? Perché Melissa McCarthy è una delle poche star di Hollywood capace di attrarre spettatori tanti perché, soldi. Perché c'è lei e tanti soldi. Pensa, gli ultimi film suoi hanno fatto i conti, hanno incassato 650 milioni di dollari negli ultimi accidenti anni. E sono tanti soldi, quindi è molto attesa, interessante e sicuramente sarà un film molto divertente. E intanto, mentre aspettiamo le risposte del canzoniere, ricordo 800 24 00 24 per chi vuole scriverci, l'SMS, telefonare, l'SMS 349-238-6666. Professor Simonelli, intanto, buongiorno. Dove era il canone ieri sera? Buongiorno. Io ho anche la soluzione, poi comunque lo dico dopo. Ah, c'è la soluzione. C'è qualcuno, Sara? Ancora no? Ancora niente. Aspettiamo Simonelli? Vabbè. Vuol farsi allora, la biblioteca a spese nostre. Allora, ieri sera, a dispetto di voi e di tutti anche gli ascoltatori che si lamenteranno di me. Speriamo di no. Il canone era su Italia 1 con il film documentario su Senna. Un film molto bello, molto bello, un'idea giustissima quella di raccontare la vita di Senna con delle immagini straordinarie, il suo conflitto con Prost, il suo conflitto con le istituzioni della Formula 1, delle riprese straordinarie di un dibattito tra i piloti per la sicurezza, immagini emozionantissime della morte, del funerale, della morte... Vabbè, insomma, le è piaciuto questo film, ma lei, per esempio, Report non lo guarda mai? Ecco, lo sapevo che avreste detto questo. No, perché era molto interessante ieri sera. Sì, anche Berlusconi era molto interessante. No, ma io parlavo di Report, lei Report non ne parla mai. Sì, poco, non gli piace. La cosa che mi è piaciuta di più quest'anno è stata... È proprio come dire, più canone di così. No, secondo me è più canone Senna. Ah, perché se noi continuiamo a pensare che il canone sia legato al sociale, alla politica, all'inchiesta, andiamo fuori strada. Ah, questa è una bella, è una bella, una bella osservazione ed è anche un bel dibattito, diciamo. Perché quella è un'area copertissima, il problema è che bisogna coprire l'area, certo, invece dei grandi racconti popolari. Giusto. E questo io punto sempre su questo, so che mi attiro alcune ire. No, no, ma qui per esempio Buttafuoco fa segni di approvazione. Ha ragione, professore, così, ha ragione. Ma perché... tu l'hai visto Senna ieri sera? No. Ha ragione, perché poi c'è sta vena popolare che viene sempre messa nel limbo delle, proprio degli esorcismi. Da Padre Pio a Senna non se ne può parlare, perché comunque c'è sempre questa maledetta abitudine di fare sempre. Ma perché tu sottovaluti? Una volta ho visto in metropolitana, ho visto una bellissima ragazza che era concentrata nella lettura di un libro. Io immaginavo fossero poesie. No, sapete cosa stava leggendo? Gli affari della famiglia, non mi ricordo, gli affari del capitale, una cosa noiosissima, terribile. Ma tu piaceva, ma guarda che posso raccontare, speriamo che non comandi mai lui, allora, perché è terribile. Ma no, non è neanche il contenuto, ma Andrea da professore, un attimo, Andrea dalla Spezia, che la vuole bruciare sul tempo, Andrea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa ci dice per il canzoniere? L'incipit è dal Michele Strogoff di Jules Verne. Giusto, bravo, bravissimo. Anche lei immagino sia in macchina? No, io sono in studio, a dire il vero. Cioè in studio perché fa il dentista, il professore, cosa fa? No, sono un avvocato. Ah, un avvocato, bene. Vabbè, ecco. Cause bene. Buone. Bene. Beh, se ci segue siamo contenti, certo. Allora, dallo studio. Le facciamo, come dire, compagnia. D'accordo. Grazie, professore, grazie avvocato. Secchissimo. Mamma mia. A proposito di cultura popolare, mi è venuto in mente un aneddoto della mia vita. A un certo punto la notte esco dal giornale e chi becco? Berlusconi che va all'edicola. Allora con la scorta, con tanto di scorta, attraversa la strada e mi passa davanti. Io lo vedo e dico, cavolo, occasione incredibile. E mi affianco praticamente a lui e vado in edicola con lui. E a un certo punto gli dico, cosa sta facendo? Dimo guarneri nelle culture pomponeri. E dico, sì, ma cosa compra? E guardi, adesso glielo dico. E prende Astra. TV, sorrisi e canzoni. Però, guarda, poi a un certo punto, aspetta, la scena principe è stata quando ha preso in mano Micromega, l'ha guardato, ha guardato la copertina e l'ha rimesso a posto. Ma però guarda, questa è una cosa, che tanti grandi che hanno vera curiosità fanno. Anna ci scrive, caro professore, ci scrive grande la Gabanelli ieri sera, come sempre, saluti Anna, anche saluti il professore. Non ho dubbi, ma io resto della mia... No, no, ma infatti lei ha introdotto un bellissimo tema di discussione. Posso raccontare una cosa divertente? Dica. Quella che è successa a Secchi? Sì. Ricordate quella scenetta di Woody Allen, quando va all'edicola e compra tutti i giornali per nascondere il porno che ha sotto? Certo. E l'edicolante lo chiama, ehi, ha lasciato qui Orgasmo, ritorni a prenderlo. Insomma, professore, che consigli ci dà per stasera? Stasera non perdetevi su Sky 1 il film di Ozon, che si chiama Nella casa. È un film fondamentale anche per Buttafuoco e compagnia, perché è un film che parla di scuola, di scrittura, di come si allevano gli scrittori giovani e come gli scrittori giovani possono trarre ispirazione dall'esperienza reale e, ahimè, anche confondere l'esperienza reale con la fantasia dello scrittore. C'è Buttafuoco che vuole contestarla. No, non voglio contestare. Una curiosità, professore, ma... Mi spieghi una cosa che non riesco a capire. Come fa poi a tenere sotto controllo tutto in una sola sera? I segreti del mestiere come fanno quelli del Corriere, come fanno sfoglia, ma vanno in contemporanea. C'è la possibilità. Beh, ma oramai MySky registri tutto, guardi dopo, tutto. Fai come vuoi. Sapete cosa si fa? Si saltabecca qua e là. Per esempio questa sera vi dirò la verità che la tentazione di passare ogni tanto su Bayern e a Madrid. L'ultima cosa, ma quando vede un bellissimo film, non si sente di tradire la televisione guardando il film? No, assolutamente no. Il film prima di tutto. Ma sai, è un po' retro il nostro buttafuoco, sì, quindi il cinema va visto solo sul grande schermo, sì. Al buio, purtroppo. Ci sono altre modalità di fruizione. Facciamo parlare a Tardelli che aveva lì, che faceva segnali. Cosa a vuoi? Proposito di calcio, sentite questa, è la canzone del giorno, della settimana, del mese, dell'anno. Quando mai, se la banana non ce l'hai, scusate, per Dani Chalves che si è mangiato la banana, simpatico, e li ha fregati tutti. Antirazzismo. Ma io la posso mettere una canzone? Mettila, dai, che chiudiamo. Siamo è martedì, ma si balla, vai. Ah no, ecco, oggi nella seconda ora Marina Milone ci racconta la storia dell'indimenticabile Domenico Modugno, un autore, un cantante, un attore che è partito da Polignano a Mare con la sua musica, è volato in ogni parte del mondo.